Vediamo un po' se vogliono entrare o sono di nascosto, orecchie di bocco, come diceva uno. Molto brutta questa radio, Antonè, con cosa stai funzionando tu? Con 2009, Sosa. 2009? Eia. Eia, ok. A ne vuoi acqua, che hai visto l'acqua che sta facendo? No, devi ammettere. Mi ha girato anche dalla TV, mi ha girato, la puntata a Usino, sto con la televisione a metà. Meno male è bello che non è 5, dalle 1, dalle 4, dalle 1, dalle 2, dalle 3. Me l'ha girata, me l'ha puntata a Usino. Sto pigliando il segnale da Usino. C'è da Usino, l'assegno lì, senz'altro. Sto ricevendo di riflesso. Qualcosa gli è severo. Io sono uscito nella strada di soffaltetto a girarla perché tutto il giorno piovendo, ci metteva 10 minuti, ma ce la faccio salire di soffaltetto bagnato, così scivolo, cazzo, ci scendo giù e mi recupero come a cucchiaino. Come ha fatto? Ma si è girata la terra o il palo? Appena al secondo si è girata, un attimo no, come al secondo sì, perché ho messo una di quelle HD, capito, 320, è più pesante, era più larga, quindi sembrava vera, la forza del vento l'ha girata, hai capito? Comunque oggi c'è il ponte ripetitore sia della RAI che di Mediaset, diciamo molta gente che in certe situazioni attacca Usilo. Io Usilo ce l'ho tappato qua, fosse stato via di zitto, sarebbe stato una cosa diversa, avrei preso l'Imbara da Usilo perché si vedono da lì, più c'è Badi Urbana, che lo prende in pieno e addirittura si è puntato a Gattacero con la 2520 di quelle antenne. Ci usavamo una volta per la UHF, prendevi la TV francese, la TF1 e tutto quanto completo prendevi, quindi messa in orizzontale. Ma ricordo quando eravamo ragazzini, però era in seccam, non era in palle, e il babbo aveva messo un'antenna, c'era un amico suo, un radiotecnico, ha detto mia la vuoi vedere, era Danussera che ripagava il televisore, ha detto sì, se ti metti questa antenna un bel lunga, con un'antenna un bel grande, puntavi verso la costa e prendevi TV France 1 e credo anche due canali francesi prendevi, però era, ci voleva il televisore predisposto, oppure ti volevano fare una modifica al sincronismo del televisore, lo faceva. Infatti noi avevamo due televisori, non so però sotto babboni buonia. No, io l'anno scorso sono andato lì a installare l'antenna TV e ho portato l'antenna a segno che ho portato al ripetitore, faccio la ricerca che mi vedo TF1, TF2, TF3, la metà dei canali, tutti i canali francesi c'era, che il giro la prendevo, poi antenna 1 e cosa del genere l'altra tanto. Allora, ho preso un girato, l'ho buttata a Monteoro, ho sollevato il palo e già mi sono arrangiato. Però si vedono benissimo, mi capite? Io appunto ho ripetito il segno con l'antenna lì in orizzontale, anche a spirare il pesce prendo tutti i canali francesi. Ma stai dicendo la casa tua? È la casa mia, io non vedo il ripetitore di segno, dovresti vederla anche tu, dalla tetto di casa tua. Devi puntare il ripetitore di segno, se punti lì, becchi in pieno i TV francesi, fa la ricerca in digitale terrestre e le vedi subito. No, vabbè, non l'ho mai provato, che è talmente un aggiudante di canali con l'impianto motorizzato, basta un satellite e ti sta anche di girare, basta autobuild e ne prendi 700-800 canali e te ne passa la voglia. Prima magari l'avrei fatto, di metterci anche un'antenna commisciolatore, un'altra calata, cioè con la stessa calata, però non me ne ho fatto nuda. Però non sapevo che qualcuno l'aveva fatta adesso attualmente. Quando giù a Platamona, certo non ne potevi vedere le televisioni italiane, entravano tutti gli spagnoli e le francesi, disturbavano completamente. Esattamente, proprio si sovrapponevano sopra i canali. Già non ricordo quello. La TV spagnola entrava su Rai 1, Rai 2, Rai 3, perché te lo trovi in VHF, mentre quelli francesi in U. Sì, sì, non lo so. Vabbè, eravamo in analogico prima, adesso digitale è un po' più complicato, le frequenze diciamo sono più organizzate a livello di comunità europea, non ci sono più problemi. Per le radio già esistono, infatti sono state delle diatribe per Radio DJ dall'Imbara, perché Radio DJ dall'Imbara spara anche una bomba con una radio della Corsica, avevano avuto un accoso, hanno fatto ridurre la potenza Radio DJ e orientare le antenne, perché loro radiavano a 360 gradi, allora hanno fatto ruotare un po' le antenne per non disturbare il canale France, come si chiamava? Corso, non mi ricordo come si chiamava, TV Corso, Radio Corso, International. Sì, dall'Imbara becchi tutto, perché becchi tutto, è come fare a Usino, se tu ti metti a Usino in una zona alta non riesci a parlare nulla, tu piazza l'antenna dove ti pare ti piace e comincia un canale una fianco all'altro, non capisci più la fanculo, ci metti un filtro per poter eliminare quel problema, perché prendi da Usino, da Limbara, da Badiurba e da Monteoro. Non lo so, ma poi c'hanno adesso le potenze, lo sai con quanti kilowatt sta uscendo la RAI da Limbara? Radio 1, Radio 2, Radio 3, esce con 130 kilowatt, una cosa spaventosa, impensabile sino a 20 anni fa. E canale, come si chiama? Aiutami, Radio Dimensione del Suono, RDS da Monte Oro, esce con 60 kilowatt, cioè prima uscivi con 500 watt e veniva a Baribucchi, invece adesso sta uscendo con 60 kilowatt e 42 kilowatt da Monte Alvaro. RDS. Figurati, a voi la spesa di corrente elettrica. Anche se devo dire, secondo me, almeno guardando qua col misuratore di campo, il segnale di Monte Alvaro e di Monte Oro hanno diminuito parecchio, secondo me sono andate un periodo che era spaventoso, adesso in questi giorni secondo me hanno diminuito la potenza, perché lo fanno pure per fare la prova di forza, per vedere che ci siamo noi, ossia che qualcuno si metta vicino, siccome loro per dire a Monte Oro coprono che è una bomba tutto Sassari e per dire i dintorni, però se c'è una stazione radio per dire tipo la Bade Urbana che è vicino a loro, dicevo bello beh, non fare un macco, tieniti un po' più basso, se no ti metto 50 kW e ti annientano, non ti faccio parlare a 200 metri dal ripetitore. Sì sì, ci sono quelli che c'erano la ci sono anche prima, quando c'erano le prime radio private che si mettevano a fianco per capito a pompare, che tu pompava i 5, che ne pompava 25, che il 600, che il 500, poi in città le hanno eliminate questi problemi qua perché non si poteva più, capito? Solo lì in piazza Cassero, sopra la Cassero, solo lì possono pompare, perché in alto. Sì, cosa c'ha un kilowatt? Ma prima Radio Zero usciva con 120 watt dal grattacielo, parliamo di 20 anni fa, 25 anni fa, adesso esce con un kilowatt, come si chiama? Latte e miele, 500 watt esce con, ma sono le potenze più basse di tutti, per dire Radio Venere c'ha 10 kilowatt, ormai non si parla più di watt, si parla di kilowatt, c'è una radio sul continente che esce con 400 kilowatt, radio Report, cioè sono potenze spaventose, cioè talmente c'è saturo il coso l'etere, per cui devi salire di potenza. Io mi ricordo prima con un 20 watt quando ho iniziato io si faceva ascoltare tutto Sassari, non dico fortissimo, magari il centro storico in mezzo ai palazzi eri un po', ma con 20 watt facevi tutto Sassari, se avevi 100 watt coprivi tutto tranquillamente, ma adesso se c'è 20 watt ti sposti dal palazzo a 500 metri non ti prendono più, proprio ti schiacciano gli altri segnali. Ci sono dei segnali, se tu vai, non so se ti è capitato, nel pezzo della caserma Gonzaga scendendo di lì o via Zanfarino vicino all'INAM, di lì c'è un'attenuazione dei segnali, ma segnali furti vengono attenuati, la RAI viene disturbata non so da che cosa, ma la grande, perché entrano i segnali probabilmente di latte e miele pieni e ti attenuano la RAI. Sì, ho capito. Io sono la base, c'è la legge Mammi, capito? Se la legge Mammi l'avrebbe attuata l'avete visto un sacco di gente che avrebbe dovuto riaperta, dato che aprire cose, gli utili. Un po' te l'avrebbe aperto che la radio, quella TV privata, c'era per i pulsi. No, ma in Italia non c'è limitazione delle potenze, cioè se tu vai in Francia c'è la limitazione delle potenze, non puoi andare oltre una certa potenza, in Corsica lavorano con 300-400 watt, c'è quella più forte, cosa, Radio Nostalgia, e l'altra TV, come cazzo si chiama, non mi ricordo neanche, come France Culture, quelle lì che escono con un paio di kilowatt, io le ascolto qua, una 93, vabbè, ci vuole un ricevitore serio per prenderle, con dei filtri, se no non ce la fai, e l'altra, la 97.6, c'è Radio French Culture, che escono con un kilowatt, ma allora un kilowatt ne non fai, ne manca di punti, arrivi con un kilowatt. Figurati, le uniche radio che pompano un po' sono Radio Vaticana, lì da Roma, 15-20 kilowatt, e non ci avete di vicino, no? Cioè, ti fa dopo dopo. 20 kilowatt, un manzano, lì stiamo parlando di megawatt, cioè stiamo parlando di 100, come si chiama, di 1000 kilowatt, 900 kilowatt, cioè usano potenze così, 3 megawatt, anche se c'è da dire Radio Vaticana adesso ha ridotto le potenze perché a parte c'hanno delle super direttive, per dire devono trasmettere dalle 4 del mattino alle 6 per l'Australia, ti puntano queste mega antenne, che cacchio, una serie di antenne che saranno 3 km di antenne e te le puntano verso di lì con mille kilowatt, anche se hanno diminuito perché stanno utilizzando internet e satellite perché hanno avuto dei grossi problemi di coso, di disturbo. Però ci sono le radio coso, quelle radio, come si chiama, cinesi, ma quelle ti tirano anche 20 megawatt, potenze spaventose, eppure le ascolti qua 9 più 20, 9 più 40 in Italia in diretta. FM non l'ho mai sentito, in AM sì, ci sono, in onde corte, che è tutto pieno. In AM, ti è presente la RAI, mi pare c'ha 100 kW, il più potente che c'ho 300 kW in AM, cioè nelle onde corte, prima c'avevano anche loro un megawatt, avevano tenuto per un periodo 500 kW, ormai stanno abbassando tutte le potenze perché si sono resi conto, no? Con internet ormai ti colleghi in streaming e fai quello che vuoi, ma queste cacche di radio arabe, cinesi o dei paesi dell'est, Radio Romania International, che hanno potenze strabilianti, non ne ha futti nuda, loro vanno, non ne frega niente, c'hanno delle cose spaventose. A me mi è capitato quest'estate di ascoltare una radio araba marocchina in FM, in frequenza 88-108, mai successa una cosa del genere, in propagazione, mai, spagnolo un po' di volte, francese sì, però sentire in diretta una radio in macchina, una radio marocchina, mai successo, dentro una macchina a me. Neanche a me mi è successo di sentire spagnoli sì, spagnoli, francesi, entrano tranquillamente d'estate. Io in diretta li ascolto le francesi, c'ho due canali francesi, 93 e 97.6 li ascolto in diretta tutto l'anno, e 97.6 è un po' più pulita perché me l'ho disturbata, 93 è una metà dei filtri per riceverla, però certe volte ti capita, come si chiama, se si oscura qualche radio nostra che è vicino, molte volte perché c'hanno i canali adiacenti, sono troppo vicini, per dire ce n'è una sui 95-800, viene disturbata da quella 95-500, o c'è un ricevitore molto selettivo, se no non riesci a beccarla. Le radio sono così, le radio libere ormai. Chi c'ha soldi pompa, ragazzi? Non lo so, ma ormai è impensabile tenere una radio privata nel senso proprio come tipo Radio Venere, cose così, è impensabile, lo fanno solo per questioni di coso, di affezionamento, perché è assurdo tenere una radio così, adesso sarebbe una radio di quartiere, cioè non puoi competere tu con una radio di quelle nazionali, network nazionali, non esiste, un po' ti salvi Radio Venere perché c'è un po' di pubblicità, se no stanno tutte chiudendo, adesso qualcuno si è fatto i soldi, è stato attento, si è fatto i soldi, si è venduto la frequenza anni fa, 10-15 anni fa, per far entrare questi network grossi, ma ormai sono tutti coperti di spazi, cioè le nazionali ci sono tutte, ne mancano due o tre, però ormai col digitale terrestre c'è tre, voi te le ascolti con la televisione, tipo Radio Subasio, Radio Norma e tutte quelle radio grosse nazionali che sono più regionali che nazionali, quelle lì ormai dice che cacchio me ne frega a me di prendere una frequenza a pagare 100.000 euro in Sardegna, quando mi attacco col digitale terrestre e faccio tutta l'Italia. Sì, quello sì. Ah, sono due satelliti addirittura, non solo digitale terrestre, sentire radio. Tutto pieno. Figurati. Ma il futuro non è neanche il satellite, il futuro è internet, perché su internet ti connetti con qualunque radio del mondo e con qualunque televisione del mondo e non è il problema di niente, di distanza e di nulla, cioè è solo problema di linea, e quello è il futuro. Infatti scompariranno col tempo, secondo me scompariranno tutte le televisioni e le radio normali via etere, sarà tutto via coso, via internet. Il satellite è molto costoso, cioè lo fanno le televisioni importanti, le radio importanti via satellite, per dire la Rai, con le, che hanno intenzione di farci ascoltare magari per questioni di prestigio, la Rai, la BBC, la televisione francese, spagnola, eccetera. Ormai con internet attacchi, io molte volte quando no, devo guardarmi qualcosa alla televisione, sciogo in macchina, prendo il cellulare, faccio il frigo e mi guardo Rai Play, addirittura ti puoi guardare i film di 30 anni fa, c'è tutto il coso, la biblioteca della Rai di tutti gli anni, ti puoi guardare quello che vuoi, se ti puoi vedere il film che hanno dato ieri, il telegiornale di ieri, e vi li attacchi, non hai più problemi di niente. E già lo so, oramai per la mia cancelleranno, elimineranno le antenne, perché adesso spariranno tutti i ripetitori, che ho io, da 5-6 anni, sarà tutto collegato via cavo, come gli americani, capito? Prenderemo la TV via cavo, la radio via cavo, quindi... Sì. Quindi ormai quei televisori che stanno facendo adesso spariranno del tutto, cioè i televisori, quelli che ricevi direttamente da Montero spariranno tutti, tanti nella soprattutto, perché parecchi anni fa lo volevano fare, poi non erano riusciti mai a farlo, questo lo facciamo adesso ormai. Se vuoi vedere la televisione ti attacchi a Vodafone, alla TIM, quello che ti guardi la TV, via capo, ci metti un cosa vuoi fare e lo trasferisci il segnale di tutti i televisori da casa. Senza fare l'antenna esterna né nulla, né problemi di disturbi di CB, eccetera, eccetera. Certo, è come internet, ti vuoi guardare YouTube, ormai diventa, sono tutti smart TV, i nuovi, di nuova generazione, ti vuoi guardare internet e te lo guardi sul televisore, non più sul telefonino, per cui scompariranno tutti i ripetitori, ci sarà una linea cellulare più efficiente, più copertura, con copertura maggiorata, poi 5G avranno l'alta definizione anche nel coso, anche di più dell'alta definizione, 4K, Ultra HD, potrai avere, eccetera, eccetera, per cui scompariranno tutte queste postazioni e diventeranno, come si chiama, tipo le case cantoniere, ti ricordi 30 anni fa le case cantoniere, scompariranno tutto, come scompariranno i punti ripetitori, almeno i punti ripetitori TV rimarranno quelli di rete cellulare e basta. Esatto, sì, ma volevano già fare da 10 anni fa, da eliminare queste le altre nella soppartetto, capito, solo che non sono riusciti mai a farlo perché mancanza di soldi o roba del genere, capito? Non devi più diventare scemo, fatto cercare il segnale, cazzo, con questi ricevitori, con i televisori, mi accavo direttamente, poi scarichi tutto, va a far culo, c'hai tutti i programmi che ti pare ti piace. Non lo so, quello è il futuro, non so se sia bello o brutto, comunque quello è il futuro, con un telefono, come si chiama, con un cellulare microscopico, una linea internet, ti puoi vedere qualunque cosa, di qualunque genere, diciamo c'è già da qualche anno, però scompariranno tutto, per cui dirò anche le televisioni, adesso le radio web, prima era una cosa, le radio parliamo con le piccoline, diciamo, quelle di quartiere, cose del genere, ma lo sai quante ne stanno aprendo, e sta ritornando di moda, ho visto le radio on the court, e diciamo piccoline, diciamo le radio tipo Radio Milano, radio così, stanno trasmettendo anche in coso, in AM, così perché per farci sentire più lontano, però talmente saturo il campo, diciamo la banda che gli hanno dato, per cui si sovrappongono, perché alle 3 prendi uno, alle 3 e mezzo viene un altro, poi alle 4 entra, ti sovrappone l'altro, quando inizia la notte che arrivano i segnali da lontano, attaccano i cinesi, i russi, gli ucraini e ammazzano tutti. Niente subito. Mi si spegni. Mica c'è Luca Roberto qua da. Già ho sentito. Scusa, mi sono allontanato un attimino, Antonio. Senti, Antonio. Chi c'è qua sul 10? Avete parlato in due, chi sei? Antonello Magone! Chi è questo? Avanti! Buh, avete parlato in due, chi c'è? Avanti! Buh, cosa non avete gana? Antonello, mi sono notato il mio... a bere, sono rientrato un minuto, 30 secondi ed è scomparso Antonello. Ci sei Antonello? Ciao Antonio! Ah, ciao lui, e beh, tu? Ciao, Bebe. Sì, boh, strano, come stai uscendo così? Sei passato a radio. Prova a parlare. Se pensate giù, sì, se mi vedi devi anche andare. No, senti, tipo tro, un rumore così, boh, forse non hai schiacciato bene il microfono. Ah, sa quel. Chi era? Ah, ce n'era un altro sotto, chi è che ha parlato? Antonello Magone, chi è che ha detto così? Non lo so, Santiago 9, abbondante era. E beh, lui, cosa c'è combinando? Robert, ti volevo chiedere, è collegato al computer poi con un radio deluxe? Controllato al computer? Che cosa devo controllare al computer? Collegata lei, la radio, quella là, al computer. Ma è nuova? No, perché come... non lo so, cioè non l'ho mai fatto, poi mi dirai, ma utilizzando l'RS-232 di cavo? Ho il cavo suo, io ho il cavo USB e lo attacco a 706 e mi collego al computer, capito? Tramite un radio deluxe, c'è tutto... la frequenza e cambio direttamente col mouse, capito? E il bandscope, analizzatore di spettro, tutto c'hai, capito? Vabbè, ma c'è una radio più recente, tu stai parlando del 940 o di cosa stai parlando? No, lo puoi fare anche con 440, non vuoi tra nulla, radio recente o mica recente, forse che c'è il suo cavo. C'è anche il cavo per il 440, ti puoi immaginare? Ma il 440 c'era un coso, un accessorio dovevi mettere una cosa, lo stavo guardando su internet, è un po' complicata la storia a farlo. Nel 940 non so se ce l'abbia l'uscita diretta. Certo che ce l'ha, il 440 c'aveva l'RS-232, però si poteva fare benissimo. Ce l'aveva, invece che ce l'ha ancora con l'interfaccia per il 440. Si può fare benissimo, adesso vabbè, fanno questi cavi cablati già per queste radio, capito? Ma sono una figata perché vedi uno spettro di frequenza enorme sul computer. Sì, come la chiavetta, diciamo, quello che fai con la chiavetta lo puoi fare anche con 940. Esattamente, puoi andare anche in trasmissione. Io quando lo collego al computer lo piloto tramite il mouse, la radio, capito? Ci vuole naturalmente una tastiera e basta per farlo funzionare o basta solo il mouse? Guarda, basta solo il mouse, a meno che non devi digitare una frequenza, però se no ti dà tutta la porzione di 20, 40 metri, 80, 160, capito? E tu non fai altro che andare lì e poi col mouse stesso giri, capito? Ma è bello perché è una cosa bellissima, tramite un semplicissimo cavo. Senza interfaccia, direttamente sta dicendo. Questo perlomeno non ha bisogno di interfaccia, ha un cavo USB, lo collego dalla radio al computer e passo, poi ho scaricato naturalmente un radio deluxe e lo uso. E vado anche in trasmissione senza nessun problema, con la radio collegata al computer. Beh, di questo qua mi devo informare, guardo un po' su internet se c'è qualcosa. Io pensavo radio più recenti tipo il TS2000, cose così, che le puoi interfacciare direttamente, ma questo qui senza interfaccia non lo so, sembra di strano. È quello, è come il 440, anche al 440 hanno fatto un'interfaccia apposita per usarlo, capito? Guarda comunque interfaccia per TS440 e... oppure basta solo il cavo, adesso non so gli attacchi, se c'è RS-232 dietro, Qua dietro non ho manco visto come è fatto questo, devo guardare, tanto mi deve portare il manuale, quello di Tesi, e me lo devo guardare bene. No, l'interfaccia già lo so che esiste per il 440, però magari è uguale a quella del 940, non lo so, magari si utilizza la stessa uscita, quella presa CC1 e CC2, c'ha dietro questo qua, però c'è un sacco di roba, sinceramente neanche mi ricordo come è fatto. No, ma è interessante, a me piacciono soprattutto guardare lo spettro e coso, vedere tutta la cosa, la cascata del segnale, delle modulazioni, della, eccetera eccetera. Poi ti guardi la banda e ti rendi conto cosa c'è, 50 metri, 80 metri, ti scomuti e ti vedi se c'è qualcuno, anziché stare a girare e fare, ti appare. Come facevo con la chiavetta, che erano parole povere, ce l'avevo per un periodo, me l'avevano data, poi non so che è successo, l'ho lasciata perdere. Poi quando sarà mi cercherò qualcosa di più sofisticato. Sofisticato c'è, io ne ho due di chiavette, c'è l'SDR con la scatoletta, però poi ce ne sono più costosi naturalmente. No, ma poi puoi tenere sott'occhio, capito, anche determinate canali, per dire, tanti canali contemporaneamente, dall'1 al 55 per dire, senza bisogno di star lì a cercare, a girare. Sì, sì, no, ma io ho il misuratore del campo con l'analizzatore di spettro della Promax, che adesso mi sta sostituendo, un amico mi sta sostituendo le batterie, quella di calcare, al piombo le sta mettendo diretto, stiamo mettendo al litio, sto facendo una modifica, gliel'ho dato per farlo. E io me lo guardavo di lì senza bisogno di fare niente. Naturalmente era a tubo cattudico, il cinescopio non era, era anche in bianco e nero, però faceva da 25 mega sino a 2500 arriva, faceva tutte le bande. Vabbè, tu mi dai, non c'è l'HF, però quello che mi interessava a me c'era 8808, quando devi fare delle prove per un'antenna per vedere il segnale, le regolazioni, con quello è micidiale, quando devi fare allineamenti per vedere, cercarti un punto di un ripetitore che magari il segnale vuoi vedere se sei perfettamente allineato. Chi è che fischia? Che caggio al canale vicini, no, io ogni tanto lo accendo al computer, accendo la radio deluxe e è deluxe, capito? Va più che bene, robe, quella. Ma se vuoi io posso chiedere anche a quello che mi ha fatto il capo a me, che fa appositamente questi cavi per determinate radio, capito? Chiedi e fammi sapere, mi interessa, dai, per vedere un po' cosa si può fare. Naturalmente deve essere una cosa efficiente e a un prezzo ragionevole. A chi vedi che Catabarita abbia inventato l'acqua calda e poi ti sparano cifre esagerate. Prova a chiedere, fammi sapere. Siccome io sono molto appassionato di radioascolto, è una cosa, poi quando c'è un bel monitor grande ti metti un monitor grosso anche di TV, di quelli di nuova generazione che ormai te li regalano, ti metti un 32 pollici, te lo metti in stazione e fa un figurone quando ti vedi tutto lo spettro davanti. Beh, ti avevo mandato il video anche di questa radio collegata. C'hai il video tu? A te l'avevo mandati però. A me? Eia. Adesso vabbè, con questo col telefono nuovo mi è sparito tutto quanto. Aspetta un attimino, mi collego un attimino, il cavetto, accendo il computer e ti faccio vedere. No, a me mi avevi mandato la pennina, e mi ha detto, questa pennina di quelle RTL, come si chiama, non mi ricordo neanche come cacchio il modello. Dici Sinaggio 2, Innaggio. Ma ci sono un sacco di porcherie di quelle lì, che veramente efficienti ne ho visto poche io. Poi c'è una scatolettina, la migliore è quella che c'ha le uscite per le HF, gli ingressi anzi per le HF e per le V, quella è più bellina. Le trovi intorno Malachita, come si chiama quella serie di lì, che ci sono anche col piccolo display incorporato, quelle sono belle, le paghi dai 150 euro in su. Poi se ti prendi quelli professionali tipo Perseus e cose del genere, ma quelli costano dai 400 in su, usati. Lo so. No, io ne ho due, la scatoletta l'ho avuta, però poi l'avevo venduta una cinquantina di euro, mi pare. Perché non eri soddisfatto della scatoletta? Vabbè, ogni volta devi accendere il computer per utilizzarla, capito? Quando c'è poi la radio non la usi più. Perché ti sposti con la radio, se ogni volta devi accendere il computer, eccetera eccetera, mi aspetta, sto accendendo, ho acceso il computer, sto entrando su un radio di lux, che poi ce ne sono altre di programmi, e comunque aspetta un attimino. No, ma dei programmi ne ho diversi sul computer, cioè SDR Sharp, HDR Deluxe e un altro, tre o quattro ne ho di quelli, però il migliore forse è quello Sharp. Per le chiavette sì, no, io ho scaricato Home Radio Deluxe e si connette, come apro l'installa il programma si connette in automatico alla radio. Sì, no, interessante, mandamelo. È solo che io adesso devo andare via, ci sentiamo magari domani. Mandamelo che mi interessa e poi informati di questa interfaccia e vediamo un pochettino. Che ti ripeto, a me sono cose che mi piacciono, queste cose. Puoi vedere un bel monitor grande con tutte le indicazioni, è molto molto più, più bellissimo. Dai, fa più scenografia e anche più facile da vedere. Ti saluto, ciao Luca, poi non so se Antonello è andato via o rientra, ci sentiamo in altre occasioni, ciao ciao, aspetto questo video che mi fai e poi ci aggiorniamo, ti saluto, ciao. Ho sentito a proposito quel tipo di tilt, mi ha detto che doveva venire ieri a Sassari, però poi ha avuto dei problemi e arriva il 2 o 3, mi ha detto di coso, di gennaio deve salire a Sassari e mi porta le istruzioni. Dai, di nuovo, cuoriti da parte mia, ciao ciao. Ciao Robert, no, sono già connesso con Radio Deluxe. Vabbè, adesso ti mando il video. Ciao Robert, ci sentiamo. A domani. Chi c'è qui? I carabinieri. Carabinieri ci sono, ciao Antonio. Carabinieri ci sono. Arrestare te, io perché? I carabinieri di Ardo, cavallo all'asino. Ah beh, allora no, non sono pericolosi. Se sono a cavallo all'asino, non è che sono così veloci a seguire. Allora, ciao Giulio, mi hai sentito un augurone? Tanto, Antonio. Vabbè, dai, sto usando il macchinetto, ma sembra già sta uscendo, per cui va bene così, sono contento. E a voi che stai scendo bene? E anche tu già stai andando bene. Non c'è problema. Beh, poca attività stasera c'è per questa. Siamo, ciao Roberto, poco fa. Il metodo Luca sta facendo delle cose. E poi Tino c'era ma è sparita. Ho capito. Vabbè, ognuno è impegnato per le cose sue. Luca probabilmente sta lavorando. Andare. Roberto mi ha detto anche. Roberto ancora c'è sì. E ha già chiuso la merda, ha chiuso prima di andare tu, neanche 3 minuti. Ho capito. Andar bene. Ok, va bene, io adesso. Stai alle 7.20, sono circa 7.17. Vabbè, cosa vuoi che ti dica, Antonio? Non so cosa dirti. Assolutamente. Tu cosa hai? Qualcosa a dirmi? Che una bella giornata oggi, di sole. Cazzo, mi è bastata leva. Per carità. Tutto il giorno, ieri tutto il giorno. Domani altrettanto. Non vedo l'ora che venga il sole per un mese, una settimana, guarda. Forse è meglio. Mi deve ballare in piedi da quest'acqua. Certo, non si può dire che non abbia piovuto in questi giorni, eh? Oggi specialmente, oggi è proprio scaricato abbastanza. Vabbè, cosa ci vuoi fare? Tempo suo, eh? All'anima. Adesso vediamo come si riempiono i vasi dell'acqua potabile, eh? Saranno pieni, sta pieni, si scaricheranno in mare, te lo dico io. Già erano pieni da quest'estate. Immagina che tu adesso hanno ancora sarà il doppio. Vabbè, no, io sto pensando invece adesso al rientro al grande lavoro dal giorno 4 in poi. Vediamo un po' quante persone sono state deficienti da farsi contagiare o da contagiare gli altri, perché sicuramente adesso aumenteranno e entriamo nella terza ondata, sicuramente con riguardo, ne sono più che convinto, con tutta la gente che si è spostata, oi, a carità. C'era anche adesso, non solo l'altro. Anche con lo sono aumentati, no? Il virus ormai viaggia, capito, col freddo, quindi il peggio. Solo d'estate riusciamo a farlo calare, perché non sopporta il caldo, capito? Una volta si diceva, se fa la neve il virus li ammazza, domani è peggio. Infatti quello, il freddo, anzi il freddo non fa altro che aumentare i contagi, perlomeno così dicono, poi che ne so, no, ma è sempre quello, il discorso è sempre questo. Se la gente fosse più cosciente probabilmente l'avremmo eliminato prima, invece no, oggi tutti in vacanza, tutti i weekend, a razza, tutti a sciare, tutti a walking, si rimbonga questa gente, si bastardi, cazzo, incoscienti. La pubblicità adesso. Raga, hanno già messo Ryanair, hai capito? 19,90, appena fanno le vaccinazioni puoi tranquillamente andare dove vuoi, cazzo. A partire vacanze, secondo te stavo, capito? Lo so, l'hanno fatto apposta, proprio perché così a me lo dice, ci va tanta gente, viaggia tanta gente e noi incassiamo. Vabbè, è una guerra. Lasciamole fare, dai. Tanto è inutile stare lì a pensarci troppo, anche se ci dovremmo pensare molto, ma molto, però invece c'è gente che non ci pensa proprio. Lasciamole fare. Lo so, è brutto questo virus. È morto mio cugino giovedì, prima di Natale, figurati. È andato in pensione 4 anni fa, faceva l'autista della TP, figurati. Si è sentito male. Per un'altra cosa, dopodiché dopo 3 giorni ha preso il virus via ospedale. In 4 giorni è crepato. Figurati, praticamente non aveva nemmeno 70 anni ancora, così è. 60 anni, lui, se non aveva avuto 65 non di più. Se è nata pensione neanche 4 anni fa, figurati tu, lui e la moglie, tutti e due, e sono giovani. Il virus non sa da dove, si sente male per altre cose, allora il virus l'ha preso in ospedale, mi pare che l'hanno attaccato lì, in 4 giorni è morto, giovedì prima di Natale gli hanno telefonato, suo marito è morto, l'abbiamo già trasferito in camera mortuaria e l'abbiamo cremato. Ma cosa ha dato alla moglie? Nulla, non ha né mai visto, tantomeno salutato, né ha potuto fare i funerali. Niente, direttamente in coso, a cremare. Sì, quando si muore così di virus, allora niente funerali, già lo so, non le fanno niente, forse nemmeno messa le fanno, che ne so, a meno che non gliela fanno lì al cimitero la messa. Io, in bella situazione ci troviamo, la pacca di dai. E intanto la gente non ha rispetto, almeno per quello avrebbe dovuto avere un po' più di rispetto, pensando a tutte quelle persone che sono decedute proprio a causa di questo problema qua. Invece niente, non ne ha fatti niente, da dietro, incoscienti, tutti i giorni mettono multe, ma non, anche le multe non servono a niente. Non servono a niente, purtroppo, soprattutto questi giovani che ci sono un pochino scellerati, ma che sono scellerati davvero. Lasciamo. E intanto nel frattempo costringono le persone di una certa età a rimanere a casa per paura, eccetera, eccetera. E devi stare così, devi stare riservato, non c'è niente da fare. Quando va a prendere il vaccino, che poi dicono che stanno dicendo che il vaccino sta facendo male, hanno sbagliato l'altro giorno, uno gli ha dato per 5 volte. Figurati bene i coglioni che sono lì all'ospedale, non ti finiranno di farti mettere il vaccino. Poi stanno dando tutte le persone incompetenti anche all'ospedale, se non credi quello credi per il vaccino, capito? C'è chi sta facendo male, chi va troppo in fretta, hanno fatto questo vaccino, troppo veramente in fretta, ce ne sono tanti di quei tipi adesso, anche a Cuba lo fanno, te lo regalano pure a Cuba. E poi del vaccino non ne parliamo. Dimmi tu con quale coraggio uno si fa il vaccino quando i medici stessi non se lo vogliono fare, soprattutto i medici giovani, non si vogliono fare il vaccino, evidentemente sospettano qualcosa. Io dico che questo vaccino l'hanno inventato così in quattro giorni proprio per fare soldi e basta, ma non lo so quanto possa essere efficace, ma comunque. Cosa vuoi che ti dica? Non sapranno loro cosa stanno facendo. siamo in una nazione che è di pellegrini nel vero senso della parola. Noi, oltre al fatto che ci stanno prendendo in giro tutti quanti in tutto il mondo, soprattutto la Germania, ci sta facendo un bel fare. La Germania se ne ha accaparrati i vaccini per tutta la sua popolazione, e invece l'Italia ce l'hanno così a rilento, ti mandano ogni tanto un certo numero di vaccini che non bastano nemmeno per quelli della casa di riposo. Perché ci sono pochi soldi, hai capito? Il discorso è quello. Se tu li dai a come gli americani che paghi in contanti subito, Solardi, la roba ti arriva immediatamente. Se tu li dai a rate e aspetti che te la paghi la comunità economica europea, è logico che quello in mezzo di e se questi se cade il governo, questi non ci pagano più, noi siamo inculati. Quindi diavoli è un tanto adesso, poi gli diamo un altro tanto, capito? Sa tipo quando stai costruendo una palazzina, per dire, quando c'hai finanziamenti, prima fai un piano, poi fai l'altro, fino ad arrivare all'ultimo, e poi tu definisci tutto. Purtroppo così è quello che va. Vediamo se c'è Luca, ci sei, ascolto. Luca Flipper, Albisese, sempre con saldatore in mano. Luca Flipper, ci sei in ascolto, esce una fura. No, il letargo è a Torino, no, è il letargo. Me ne sono accorto che è letargo. Va probabilmente ad affare, adesso che sta a Guaracchino, se ha da fare è meglio che faccia, così almeno risolve qualcosa di positivo e non perde tempo come lo stiamo perdendo noi. Vabbè dai, comunque c'è andare questo birichino già va bene, per cui va bene così, sono contento. Adesso lo stacco, lo rimetto dentro la scatola. Buonasera, buonasera. Beh, sempre la grande, mi con 140 sto andando. Sempre quello, Uno l'ho messo in 40 metri, no, dove? In 80 metri ce l'ho, 3650. E questo funziona. Uia. Per carità, che schifo di giornata adesso. Ehi, Giorgio alle 7.25, vivo a Dedù. Adesso fra un po' andrò a portare a Peppedù. Infatti le 7. Dunque qui ho le 7.27 e qualche secondo. Questo è giusto l'orologio. 7.27 e qualche secondo. Quasi 28, eh. Sì, beh certo. E lo so, si è fatta l'ora anche oggi. Intanto ha piovuto tutto il giorno, boh, non puoi uscire, cosa vai? Va bene, non sarei uscito ugualmente, però c'è tanta gente che sarebbe uscita e invece magari è dovuta rimanere a casa proprio a causa della pioggia. È così. Ma Antonio? Fria, c'è scusa la fattoria qua stasera. E ieri. Per carità. Era tutta la gatta a Sassoli. Giovanna era lì alla 131, rientrato da Pizzicotto, si è venuto a fermare, non aveva prima fanculo, mi ha detto. Dice, mi sono venuto a fermare i Ciantonelli, ero con Daniele, non volevo niente, mi sono venuto a fermare in un fianco, non si vedeva nulla da acqua e vento, non riuscivo a avere un accidente, figurati l'acqua che stavo facendo. Stava anche grandinando qua, alle 6, dunque saranno state le 3 metri, una cosa così, 3 metri 4, stava anche grandinando, per cui naturalmente anche pioggia, perciò si scioglieva subito, non era quello il problema. Va bene, dai, avanti qua. Sì, grande ne abbiamo fatto qua in altura, grande, poi ne va sciolta, boh. Non so, freddo da cane, adesso sembra un po' che si sia calmato, però anche poco fa stava piovendo. Sì, è tutto il giorno qua, smette un attimino, poi riprende, non è molto forte, però già si fa sentire, già bagna. E quello che va, sì che ieri ha piovuto tutto il giorno, oggi ha piovuto tutto il giorno praticamente, e ti vedo a campare. e noi rimaniamo a cuccia. E così è. Non si può dire che non stiano riempendo il bacino quest'anno, eh. Avanti, Antonè. Figlia qua stava bene, stava grandirando, poi la gheppe sciolta, anche ieri era fatto la stessa di qualcosa. E avanti, passiamo in alto, quindi siamo in sera, siamo 420, se non mi ricordo bene, ma lei sono 422, se non mi ricordo bene. La gheppe è più alta di me, però già si sente qua il freddo, la luglia, altro che stare sui posturi, qua al monte è basso, cioè alla veloce. Molto alto e si sente lo stesso, il freddo. Avanti ieri c'era anche neve, a Campania c'era neve, a Cagliari buio, è tutto imbiancato. A sud diciamo, bene o male, poi vabbè in altura si sa, fa tutti gli anni, ma Cagliari non è che sia in altura, no. Eppure nonostante tutto già si è imbiancata la città. Anche qui nella zona a Campella c'era un po' di neve, già è durata un bombo. Vai qua. E che anno è giù che si è nevicato? Nell'82 o nell'86? L'ultima volta che è nevicato a Sassari? No, non me lo ricordo. Non me lo ricordo, no, ma non così lontano, no. Non nell'86. Assolutamente, no, io qualche anno fa qua avevo il tetto imbiancato, infatti sino all'altro giorno avevo una fotografia del mio tetto tutta piena di neve, e non era molto, no. Sarà qualche anno, vabbè, non è che ne ha fatto eccessivamente, però intanto di coprire le tegole già l'avevo fatto, e avevo la fotografia nel telefonino sino all'altro giorno, ma così ce l'avevo così per curiosità. Vabbè, dai. Avanti, Antonio. Sto parlando della nevicata, come si deve, che è durata una settimana, che c'erano 15-20 cm di neve a Sassari, era un casino. Neanche qua si arrivano, solo l'altro. Era parecchi anni fa, lo dico, intorno agli anni 80, forse 90. Poi l'ultima nevicata mi sembra fatta 3 o 4 anni fa. E c'ho le fotografie anch'io, nel telefonino d'arancione ce l'ho. Che aveva fatto, ma in tipo di 2-3 ore si era asciutto tutto. Solo dalla parte di uso non si poteva andare. Capito? No, la neve, la quantità di neve che ha fatto in più a Sassari sono passati tanti anni, esattamente nel 56 c'era 1,20 m di neve a Sassari. E mi ricordo benissimo come se fosse oggi. Io avevo appena 14 anni, devo immaginare. E c'era, infatti la sera quando ero uscito dal negozio, da allora volavo lì alla Fiorentina, al corso, di fronte al primo UPIM. E c'era la neve altissima, alle 8 quando abbiamo chiuso il negozio, io non ero coperto abbastanza. E sono dovuto andare a casa di mia nonna che abitava lì vicino, Sassari Vecchio, trovavo praticamente nel corso stesso, e mi sono fatto dare qualcosa da mettermi addosso proprio per arrivare a casa, perché io non ero abbastanza coperto, e c'era un freddo cane, e mia nonna mi ha detto: cosa ti do, figlio? Mi dice: non so cosa darti, c'è la mia nonna e mia nonna. A meno che non ti prendi il cappotto mio, dice, e dammi il cappotto tuo, gli ho detto. E allora, siccome era già buio anche, io l'ho preso, me l'ho messo e sono andato fuori all'esterno di Sassari per salire a Monte Rosello a casa. Però in parte mi ha coperto almeno quello, se no ero proprio scoperto del tutto. Non è che un nudo, però non ero abbastanza coperto. Vai Claudio. Allora ti dico che nell'87, perché mia figlia era appena nata, nell'87 ha fatto una bella nevicata, una bella, bella, bella, bella. Ok, sì, no, io non me lo ricordo, mi ricordo benissimo quella del 56, anche perché mi è rimasto impresso il giorno, una donna è passata proprio davanti al negozio dove io stavo lavorando, è scivolata e si aveva rotto il femore, si può immaginare, mi è rimasta impressa quella storia, dallo 50 sì, ti puoi immaginare, ero ragazzino io, 14 anni avevo appena, e vabbè, discutono più così. Poi hai grosse nevicate, non me le dico, sì, già ne ha fatto lo stesso, ma non a quei livelli, perché la volta avevano fatto 1,20 a Sassari. Caspita, quasi quasi mi copriva, ti puoi immaginare. Ripeto, Natale. Stavo a 1,20 nell'80, però 60-70 centimetri c'era, perché mi ricordo, abitavo in via Vizzito ancora e ci avevamo il cadastro che l'ha scoperto, ma non aveva coperto niente, quindi c'era la neve nel cadastro, c'era, e ci divertivamo a tirarci la neve addosso. Poi eravamo scesi lì in strada, ce l'avevamo divertiti, ma mi sembra durato un paio di giorni, due o tre giorni, non di più. Dopodiché neve proprio, è stata qualche cosa, qualche stufata per un paio di giorni, è rimasta, dopodiché è sparita. Oh, io mi ricordo nell'87 qualcosa del genere, mi ricordo l'87 che ho fatto una bella nevicata. Vabbè. Noi raga, io vado a portare il cane, se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Sì, vabbè, sì. Se dopo ci sono già sono qua la scopa, non c'è problema. Nel caso. Ok, ciao qua. Alla prossima, allora dai, ci sentiamo. Va bene. E gli anch'io. Devo adesso darmi, me ne scendo giù, vabbè. E incominciamo a parecchiare. Così almeno prepariamo per la cena. Non so cosa c'è stanotte, però sento un bel odorino, un bel profumino, sento. Evidentemente qualcosa di buono. Vabbè, dai, sembrano. Sembrano gamberi, dall'odore sembra gambero, vabbè comunque. Staremo a vedere quello che ci mangiamo. Riprendi. Sono gamberi, basta c'è roba da mangiare. Anche se sono piccioni, che i piccioni mangiano in cosa in Cina. A questo già li mangiano lo stesso, dice che sono buoni. Ah, io, sai, mi ricordo lì in via Pascoli, prima di arrivare al passaggio a livello che c'era praticamente alla fine di via Pascoli, c'era un tipo che faceva il falegname, un certo Francesco Urbino, e aveva in questo negozietto, aveva due stanze, una era all'ingresso dove c'erano tutti i macchinari, e l'altra all'interno c'era una cameretta, e lì un giorno sono entrato da lui e ci saranno state non meno di 70-80 piccioni. E io ho fatto, c'è mai tutti questi piccioni, cosa te ne fai? Cosa me ne faccio? A mangiarmeli, a mangiarteli. Caspita, una puzza fuori in quella stanzetta, perché sai, gli uccelli li sporcavano, ma una puzza tremenda c'era. E lui si faceva i pasti proprio dai piccioni. Io lo so, non dico a me la puzza che fa la cacca del piccione, perché se tu vai in quelle palazzine lì che sono dove ho fatto l'impianto della TV, io alla seconda palazzina lì alla cementeria, c'è la merda del piccione è alta un metro, cioè. Figurati, nelle scaline ce ne sono 50 centimetri, quando sali devi salire, sempre che stai sotto usci, hai capito? Poi cacca, ma di tanti anni, figurati le pulci che ci saranno. Quindi a un certo punto a me mi venivano le crisi politiche, quando mi chiamavo questa qui, signor Antonio, venga, se c'ho problemi all'antenna, pigliavo salivo sopra qua, l'odore dei pantaloni, di cosa di cacca di piccione, delle scarpe, cazzo, diventava a casa un prurito, alla fine io ho fatto l'antenna e ho detto, guarda l'antenna è a posto, non mi cerchi più perché non ci vengo più, gli ho detto. Gli ho detto, io non devo ammalarmi per lei, gli ho detto. Che non riesco neanche con la macchina riuscivo a respirare, salendo lì in quelle scale, sai dove state. Sì, perché puzzano in una maniera impressionante, proprio uno schifo, proprio nel vero senso della parola. Sì. E quello che fine ha fatto Antonio Osai, Tonino Osai. E tu più visto l'hai, Antonio? L'ho visto l'anno scorso, e ancora ho visto. Era da Charlie, il medico che c'ho io, hai capito? E l'ho visto lì. Stava facendo controllare, che aveva avuto un intervento per un tumore che c'aveva, e l'aveva sistemato a posto, dice che va tutto a posto, da me, cioè, diceva, ah, fanculo, te potevi crepare, per non farsi portarsi i temi da io come bugiato, cioè. Non c'è nulla, più costosi sono, più campano, cazzo. Il poveraccio, me l'augurio gli hai dato che doveva crepare. Dai, dai, dai, vabbè, se gli hai detto, se l'hai detto scherzando, magari. Un po', non era molto, molto tranquillo, un po' filibustiere era, no? Con i dipendenti, quello lì. Non ti pagava abbastanza, o quasi niente. Sì, quasi nulla, perché si faceva lo scopo, ma era la percentuale quando facevamo le antenne, hai capito? A macco, io ho detto no, non è così la cosa, gli ho detto. Cazzo, poi era un cane morto, cazzo, per dire, andavo, se io ci andavo in negozio mi telefonava, io scendi, devi scendere in negozio, mi serve per forza, bisogna portare questi frigoriferi, queste lavatrici, queste cose, io dico, oh, cazzo, non è una cosa sicura, tu hai sicuro, ma è sicuro in vita sua mia, ma si mi ha preso per il culo, ma quindi a un certo punto, per carità, guarda. E invece quello campa più di me, campa, cazzo, io mi... Perché c'è uno 80 anni, sono di più pure. Sì, 80 anni, 80 anni, sì, infatti, è un anno, due anni più grande di me, dai, un anno e mezzo, due anni più grande di me. Io lo conosco molto bene perché abbiamo lavorato nello stesso negozio, proprio in quel negozio che ti stavo dicendo poc'anzi, al corso Vittorio Emanuele, eravamo ragazzi tutti e due, e appunto lavoravamo insieme, dai. Lui, il mestiere, lui è elettricista, era elettricista. Ma dove abita di casa, Antonio, tu lo sai? Sì, che lo so dove abita di casa. Quando arrivi dalla 131 giri per entrare lì a... Ma sei andato alla prima palazzina gialla che c'è, nell'angolo. Come si chiama? Via Budapest, no. Via Locatelli, mi pare. No, Via Locatelli, no. Forse via Budapest, mi pare che non mi ricordo bene adesso. Comunque, appena tu entri a Sassari, capito, dalla 131, devi entrare per forza lì per poter... E poi arrivi a Grattacielo con la che c'è, via Monserrato. Cioè, tu finisci la strada prima di arrivare a Via d'Italia o all'ingresso di Via d'Italia ci arrivi? No, non ci arrivi all'ingresso di Via d'Italia. Prima di per Via d'Italia. C'è l'ingresso per andare lì a Coso. Aspetta, a me, cavolo, sulla punta della lingua. Quella via lì, cazzo. Sassari, proprio fai la curva per andare a quel Grattacielo grande che c'è, dove c'è la chiesa. Boh, non lo so, vabbè, dai, fa niente. Sì. Praticamente all'altezza della Conrad, praticamente. E devi girare lì, dove c'è la Conrad, in quella strada, che poi ti porta verso... dove ti porta, non mi ricordo, ma c'è Carabinieri, quella strada ti porta, là. Esatto, sì, bravo. E poi vai dritto e vai in via Turati. E lui abita lì, proprio all'ingresso lì, appena che giri da via Corso, da via Budapest. C'è il palazzo lì e abita lì. Il primo palazzo proprio lui è. Ho capito. Sì, quando era ragazzo abitava in via Leonardo da Vinci, in quella zona lì, al Monte Rosello abitava. Lui aveva la passione della bicicletta, la corsa, infatti ce l'aveva comprata. Poi, siccome la madre non gli accettava a casa la bicicletta la notte, e allora quando chiudevamo il negozio la bicicletta la dava a me, la portavo io a casa. E mi facevo i giretti con la bicicletta, salivo in via Gassareda a tutta velocità, proprio. Allora avevo una certa forza, ero un ragazzo, dunque. E lui però di corse non ha mai preso la accidenti, era una schiappa, era come ciclista. Sì, se noi in macchina, lui era talmente pericoloso quando guidavi con lui, che ci volevano quattro occhi, non sei. E quello gli aveva portato sempre in macchina, penso andavamo fuori, verso Alghero, cosa del genere. E gli ho detto, guarda che te, se dovesse succedere un incidente, gli ho detto, io ti lascio qui, e mi faccio accompagnare, e tu mi metti a metà stanza, gli ho detto. E non sai guidare, gli ho detto. Oh, non ti preoccupare, già non succede niente. Sì, sì, gli ho detto. Grazie. Per carità. E una cosa del posto di conoscere, che è stato in gamba, com'è stato in gamba? Perché io mi ricordo, dove adesso detto così tra noi, ma intanto tutti stanno ascoltando, non voglio fare niente, io me la intendevo con la figlia del principale, allora eravamo ragazzi tutti e due, sia io che lui e anche questa ragazza chiaramente, e siccome me la intendevo stesso di Guzio stesso, a un certo momento è entrato lui improvvisamente e mi ha trovato con questa ragazza, mi ha trovato, però è stato bravo perché ha detto ma adesso mai lo riferisce al principale, invece no, è stato bravo, ha girato le spalle e se ne è uscito, se ne è andato fuori in salone, noi eravamo nel magazzino dove c'era tutto il materiale, io Antonio. Vabbè, ma anche lui è maniaco, come già lo sai.